Buonasera a tutti e tutte. Yes, people, questo è Jolly Roger. Iniziamo questa nostra nuova puntata. Siamo arrivati a metà maggio. È ritornato il nostro amico Marco a trovarci dall'Orazio, con il nostro amico Ciccio che è ritornato da Granada. Ora ci racconterà un po' di cosette. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche del Brancaleone. Oggi ci sarà appunto un'iniziativa, una presentazione di un libro dalle 18:30 in poi. È arrivato finalmente il grande caldo, ma durerà poco, così dicono. Le previsioni mettono pioggia. Qui il nostro meteorologo Matteo Masi a breve ci darà anche le sue previsioni settimanali del weekend. E salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche anche di Radio Grad che ci ritrasmette tutti i mercoledì, tutte Gemini Network, e domani appunto sarà un piacere rincontrarli alla città dell'Utopia in quel di San Paolo. E iniziamo questa puntata con il nostro primo pezzo e poi partiamo a bomba con la puntata. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di goal play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale. Leone, questa Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. È ritornato appunto il nostro amico Matteo, che è qui al mio fianco, e cui passerò il microfono e ci racconterà insieme a Marco il loro viaggio culturale in quel di Granada. Sì, hanno tanta cultura, quindi facciamoci raccontare qualcosa, com'è andata, com'è Granada, com'è il tempo in Spagna. Allora, a tutti, Matteo, che ti racconto, a Granada, una quella spagnola, miei amici di classe, ho fatto le 3 ore di lezione con mio amico Daniele, e ho fatto te. No, no, vai, vai. Racconta, com'hai mangiato? Io ho mangiato bene perché io ho preso un panino con pollo, patatine, no, mo, Piero, Vai, vai. panino, pollo, patatine e tè, e no, Ma la veglia? no, allora, mangiando le cocchette di patate, allora ho preso 2 cocchette di pollo, Piero. Ah, insomma, quindi sei andato in Spagna e ti sei mangiato la sangria, l'hai bevuta? Ma no, no, no, per poi, accanto a tutti, io ho preso un dolce, ma Ma che buonì. dolce era? Alla Granada è tipico il Pio Nono, sentivo. Ora passiamo il microfono al nostro Mamma. amico Matteo che ci dice anche il nome che tu c'hai. Racconta com'era, prima cosa, perché ci hai detto che era buonissimo. Ho mangiato un dolce buonissimo con dentro la cioccolata. Io ho mangiato e a tutto dietro ho preso un bel succhetto e no, no, no, beh, succhetto alla pecca. Ciccio, io ti ripudio. No! Anche perché birrette te ne sei bevute? Ma Come, ma dai, sì o no? dai! No! Mannaggia, quindi devi riandare a Granada. E poi ho fatto un regalo a mamma, ho preso un piatto, ma bello, Piero! Confermo, confermo. Mi ha fatto vedere la foto del piatto tipico della ceramica di Granada. Tutto bello, abbastanza colorato, e finalmente ha portato qualcosa a mamma. E poi ho comprato portachiavi per papà Massimo. Papà, molto contento. Senti, poi tu sei stato in una famiglia, come ti sei trovato? Sei stato bene? Sei stato male? La signora come ti ha accolto? La famiglia? Alla chiesa per me bene, perché la signora, Come si chiama? Sara, Non la saluti? ciao Sara! E poi io non ho chiesto una cosa a tutti, io ho preso i cosi, i fiori a Sara, ma i fiori bellissimi! Bravo Ciccio, quindi è stata una bella esperienza. Il prossimo viaggio, diamo uno spoiler del tuo prossimo viaggio? Io vado a Egitto perché ai cito vado perché io con papà e mamma vado ai cito, ma bene perché io vedo, imparo a fare un bagno a mare. È bravo, tu puoi andare a subito parte per l'Egitto, ritorna e ripartiremo per il soggiorno. Una vita in vacanza, come diceva una canzone. Quindi passo il microfono anche a Marco, che ovviamente, stando in classe insieme con Matteo, ci racconta anche la sua esperienza a Granada. Innanzitutto, ciao a tutti, come sempre. E allora, l'esperienza, no, a Granada no, è stata piacevole, godibile. E allora, insomma, cioè, no, veramente, Roma rispetto a Granada, veramente indietro proprio al 1600 noi siamo. A Granada proprio si vede che l'organizzazione proprio in generale, mezzi, insomma, Un altro livello. cose del genere, insomma. Cose del genere, insomma, sono messi decisamente meglio, sono più avanzati. C'è anche da considerare che comunque la città è più piccola e quindi chiaramente magari è più, diciamo, semplice, ecco, da gestire, ecco, sotto questo punto di E vista. la scuola? Dove La scuola stava al centro e, diciamo, durante le lezioni, la prima parte della lezione, c'era un insegnante che faceva grammatica spagnola. invece la seconda parte ci sta un altro insegnante, invece faceva conversazione, cultura, parlava della cultura appunto spagnola qua a Granada. Insomma, abbiamo fatto delle attività comunque interessanti, abbiamo fatto escursioni pure, abbiamo andati all'Albucarra, che è stata un'esperienza, paesaggio bello, e solamente però abbiamo fatto il percorso, è veramente una fatica La tremenda più bella foto è stata quella dove lui sta in mezzo a tanti prosciutti, dove si sfruttava Condi, per. condi, sì. Eh sì, stavo proprio all'Albucarra, che è stata un'azienda appunto che produce prosciutti, insomma, comunque Ah, sei andato a veramente fare prosciuttaro a il Granada. prosciuttaro, ben detto, Va bene, passiamo un pezzo e poi ritorniamo sempre qui in diretta. Questo è Jolly Roger. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, questo è un pezzo che ha portato il nostro amico Marco dell'Orazio e ci ha raccontato anche lui della sua avventura in quel di Granada. Ciccio, com'era il tempo a Granada e come sarà il tempo questo fine settimana qua a Roma? Allora, io mattina, domani per nuvolo, domenica piove, però. Domenica piove? Bacio. E a Granada com'è stato il tempo? Ma caldo! Caldo, infatti dalle foto stavi già in calzoncini, mentre qua a Roma ancora oggi si boccheggia, anche ieri, però insomma è arrivato anche qui il grande caldo, ma appunto domenica piove, quindi domenica che si fa? A Toccata! che fa? Ragazzi, la play! Va bene, giù. Allora, mia, c'è una portata intima, ragazzi. Domenica c'è la partita, portata intellata, perché a domenica a 18. E tu dovresti vedertela, vorresti vedertela? Sì, da donna. Eh? È da donna partita. Ah, su da zona, ho capito. Senti, Ciccio, ma passiamo un pezzo e poi facciamo le partite, o vuoi fare le partite e poi passiamo un pezzo? Vabbè. Yeah. è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18 dal Brancaleone. Proseguiamo, questo ormai sta finendo la nostra terza stagione e piano piano ci si avvicina anche a quella che è la nostra centesima puntata. Arriviamo al dunque, Ciccio, erano rimaste le partite in sospeso, che è la penultima di campionato, la terzultima di campionato. L'ultima. La penultima, ok. Ormai lo scudetto è stato assegnato, c'è stata la lotta salvezza, lotta champion, e vai con i tuoi pronostici. Biondino Napoli, Pitellano, Biondino, poi Lecce Nalata, Pitellecce, Torino Mia, Torino, poi Sassuolo Cagliari, Sassuolo. E poi altre due? Bologna Juventus, Pite Bologna. Perfetto, dopo tutto lo show che ha fatto Allegri ci starebbe proprio bene. Senti, pronostici sulle squadre che andranno in Champion? No, lo dico, l'Inter di Champions. Vabbè, l'Inter ha vinto lo scudetto, dai, I Milan sì, la Juve sì, la Lazio di sì, un'altra, Salernitana. La Salernitana in Champion. Oh. La Salernitana in Champion, dopo di questo devo mandare per forza un pezzo così che te massacro proprio. No, no, scherziamo. Mi raccomando, lo diciamo ogni volta che presentiamo e riportiamo le scommesse, si fanno in maniera parsimoniosa, giusto Ciccio? E soprattutto ricordiamo che dai 4:30 ai 6:30 siamo qui al Brancaleone e se volete venire a portarci qualcosa da bere è tutto ben accetto, soprattutto se vincete. E vincete, infatti! Dai, passiamo un altro pezzo che io dedico al mio amico Ciccio e al suo amico Matteo, al suo amico Marco, e no, scusate il gioco di parole, sentirete, è un pezzo famoso e c'è sta tutto. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai, lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. E ritorniamo in diretta, cambio al mic. Ho gonfiato di botte fuori onda il nostro amico Ciccio dopo che ha detto la Salernitana in Champion e se l'è ricercata proprio. Però facciamo sentire che sei ancora vivo. No! Come no? Sei vivo sì o no? Sì! Perfetto. E ora dal nostro amico Matteo passiamo alla nostra amica Alice. Passiamo ad Alice? Sì! Allora, la nostra Alice è la, diciamo, consulente di bellezza di Jolly Roger, nonché di Pirate Radio. Quindi accogliamo anche il nostro amico Lucone, che è arrivato in questo momento, e anche lui vestito dello stesso colore della nostra amica Chiara. Se si mettono al semaforo, nessuno si ferma. È Idea Prisma, vedi? C'è lo stesso colore Idea Prisma, e salutiamo tutti i colleghi e tutte le colleghe che ci ascoltano. Allora, Alice è la nostra consulente di bellezza, quindi detto questo, dobbiamo... di cosa parliamo? Allora, oggi parlerò... Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un bagno schiuma con una crema idratante ed è molto delicato, con latte di mandorla e bolle di karité. E questo bagno schiuma è ottimo, direi, per usarlo quando ci serve. Soprattutto vi dirò se per me è buono. Prima di tutto io lo devo comprare, però io intanto me lo sono scelto su internet, perché Hai fatto una ricerca, diciamo, perché tu tutte le cose che riporti qua, a parte che le provi, ma poi le studi. Esatto, l'ho fatto scegliere qualcosa. E per la radio stamattina, e la marca è spuma di champagne. Di champagne? Sì, spuma di champagne. E senti, ma questo è indicato più per le donne o anche gli uomini possono utilizzarlo? Lo possono utilizzare anche gli uomini. Ok, dove si compra? Tu hai detto che l'hai visto su internet, dove lo andrai a comprare? Sempre su internet oppure in qualche negozio? E al supermercato. Ah, al supermercato, proprio ancora più semplice. Sai il prezzo? Ve lo dirò a breve. Vabbè, poi la prossima volta, quindi tu lo consigli sia agli uomini che alle donne, ma giusto? Penso che costerà penso meno di una decina. Speriamo, insomma, se no è un salasso, non è un bagno schiuma. Comunque, facciamo una cosa. Ma costa una decina, il bagno schiuma a parte costa di meno. Beh, certo. Poi se si trovano tutte e due insieme sarebbe ancora meglio. Sì, certo. Senti, e poi vogliamo parlare anche dell'altra cosa, che l'altra rubrica che tu curi, che è quella sulla mobilità di Roma, quindi sì. L'ATAC, metro e bus. Che succede in quel di Roma? Allora, a parte il gran caldo e il gran delirio di traffico. Allora, notizia ATAC, in questi giorni hanno tagliato l'erba sotto casa mia e finalmente è tutto più pulito, perché hanno pulito anche le strade. Infatti io quando stavo a casa in questi giorni ho sentito qualcosa che tagliava fuori casa. Infatti io volevo dirvi a tutta l'AMA grazie di tutto, che avete tagliato l'erba e che avete spazzato le foglie. E grazie di tutto veramente, che avete pulito l'amo, che avete pulito sotto casa mia. Grazie veramente, di cuore. Alice ama l'ama, quindi sappiatelo, anche noi amiamo l'ama, soprattutto e soprattutto perché in questi casi, visto che inizia la bella stagione, tagliare qualche aiuolo e qualche praticello male non fa. Andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo qui in diretta. Thank you. stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia poi di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare. E sono un arrogante. Sembra quasi che non vuoi scherzare. Io sopra di te, tu sopra di me, tu calma, calma. Ehi, come Mona Lisa, ma con la mia camicia. Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita. Ora allaccia la cintura che entriamo nella mia vita. Ti riporto a casa dopo che ti ho servita. Dai, vieni più vicino, si muove col vaccino. La mano tra i capelli, se ancora, ancora. Dai, vieni più vicino, sul collo tuo respiro. La mano tra i capelli, ma l'altra dove va? Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, arrivato nel frattempo il nostro amico Lucone con tanta roba. Saluto, ciao, vai Luco, dai . Dopo aiuto. Anche a te. Senti, tutto a posto? Ci avete piegato tanto oggi per arrivare, però ci sono, quindi questa volta sono riusciti ad arrivare anche 20 minuti prima della fine della puntata. Passo il microfono al mio amico Luchino, che nel frattempo sta sudando, quindi non so se è per l'agitazione o perché fa caldo, perché secondo me fa caldo. E niente, passo direttamente il mic al nostro amico Luchino. E con Luchino avevamo iniziato anche quello che sarà un po' il tema della settimana prossima, puntata. Iniziamo a spoilerare come si fa nelle migliori trasmissioni, come fanno quelli seri, Radio DJ e compagnia bella. Parleremo di romanità, ma non intesa come fede calcistica, anche perché a Roma ci stanno due squadre, non diciamo quali, per discorsi par condicio. Ci sta il Biondo Tevere, ci sta il Papa, ci stanno i San Pietrini, ci sta il Colosseo, ci stanno i modi di dire dei romani, ci stanno... Esatto, quindi ora Luca inizierà a spoilerare quello che sarà la prossima puntata. Quindi noi parleremo di cosa, Luchino? Parleremo di romanesco. Anche parleremo, diremo le frasi più dette a romano, i piatti, cioè diciamo un sacco di roba. E oggi io racconterò delle esperienze che ho fatto al tirocinio, che ho terminato proprio oggi. Allora... Quanti giorni, anzi, quante ore di tirocino hai fatto? Famo i seri come quelli proprio che fanno le interviste. Beh, all'incirca ne avrei fatto tante e qualcosa. Sono qua, ho fatto dalle ore 9 del mattino fino alle 13. Ogni tanto mi sono fatto una piccola connessione al bar, che là sono molto gentili. E E poi com'è andata? Dai, raccontaci tutto un po'. bene. Primo giorno 4 aprile. Oggi, ultimo giorno che ho finito, ovvero il 17 maggio. È stato molto duro. Ci siamo scherzati. Sono stato anche con i ragazzi del quarto informatico, Riccardo e Simone. Saluti molto. I proprietari del negozio ho conosciuto Alessandro e Raffaele, sono due belli grandi fratelli. Abbiamo scherzato. Ogni tanto abbiamo già un pizzetto pizza. Abbiamo chiacchierato. Siamo stati un pochino fuori, abbiamo sistemato anche qualche PC che non andava bene, l'hard disk, Windows. Ma t'hanno fatto lavorare o t'hanno fatto scaldare solo la sedia? No, ovviamente lavora, perché fai? Stai qua e allora guarda, non penso proprio, allora te, devi dare una mano alle persone. Infatti io ho installato Windows, come a scuola mi ha insegnato il professore Aulicino, che rivedrò questo lunedì. E lunedì volevo fare anche gli auguri alla mia professoressa di matematica, che ha partorito la sua nuova Ah, figlia. Quindi santa tanti Maria. auguri alla professoressa Antonini. Perfetto, Luchino. Facciamo, mandiamo un pezzo che hai portato tu e poi ritorniamo con le due consuete rubriche. Esattamente, Coldplay, Paradise, e torniamo in diretta fra poco. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, stiamo in direttura di arrivo di questa puntata ricca di chiacchiere. Abbiamo parlato un po', Matteo ci ha raccontato del suo viaggio culturale in quel di Granada, abbiamo parlato di bellezza, abbiamo fatto i nostri soliti pronostici sul calcio, il meteo, insomma tanta roba, e appunto abbiamo iniziato a spoilerare anche quello che sarà il tema della puntata prossima, della settimana prossima, che sarà quello della romanità. Quindi ripasso il mic al mio amico Luchino, che finiamo con lo spoileraggio della settimana prossima e torniamo a bomba su quelle che sono le offerte e le battute. E a Roma si accorciano le parole, perché a Roma c'è il dialetto romano. Una persona quando è contenta dice "Namo, dai!" E una quando rompe scatole "Oh, hai rotto il ca, namo!" Quando vo, ce vo, ce vo, punto. E soprattutto una cosa che non hai detto, ma lo dico io visto che mi è rimasta impressa perché stavamo ancora fuori onda, il romano taglia le parole, ma per quale motivo secondo te? Perché non gli vate fare niente. Non gli vate faticare, cioè finire una frase, una parola a volte può complicare la vita, quindi va bene, rimandiamo a settimana prossima anche con le dovute scelte musicali della puntata. Allora vai Luchino, parliamo delle tue rubriche. Mandiamo un pezzo e poi andiamo con le battute offerte. Perfetto. Close to God, we don't pray for love, we just pray sometimes you need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. Man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Siamo arrivati proprio agli sgoccioli della puntata di questo venerdì. Abbiamo spoilerato quella che sarà la settimana prossima e finiamo proprio in bellezza con le consuete rubriche del nostro amico Luchino. Pronti con le battute? Qual è il colmo per un pomodoro? Avere i sensi di polpa. Qual è il colmo per un ricco? Esprimersi in parole povere. Sapete dove abita lo spray anticalcare? Nel Via Cal. Offerte Lidl. Macinato di bovino a 1,99€. Fanta a 1€. Sneakers a 3,75€. Lidl, anch'io. Ah, come sempre noi ribadiamo che Lidl non ci dà manco una caramella. Quindi questo è tutto frutto della passione per i supermercati del nostro amico Luchino, che è anche utile per il nostro laboratorio di cucina del mercoledì, diciamolo, perché noi ci affidiamo molto ai consigli per gli acquisti del nostro amico Luchino. Salutiamo tutti e tutte, un buon weekend a tutti e tutte e passiamo un pezzo appunto quello che sarà la settimana prossima. Romanità e romanesimo. Quanta pena stasera, c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. Sì, c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Barcarolo va controcorrente e quando canta l'ego sa risente. Si è vero fiume che tu dai la pace, fiume affadato e fammela trovare. Più di un anno è passato da quel giorno che dissi a Ninè, quest'amore è ormai tramontato, ma rispose lo vedo da me. Sospiro, poi mi disse addio core, ce lo sai, non me scordo de te. E corsi appresso ma nulla arrivai, la cerco ancora e nulla trovo mai. Si è vero fiume che tu dai la pace, me so pentito, fammela trovare. Proprio incontro al battello, vedo un'ombra sull'acqua, vien qua. Poi se gira ce fa il mulinello, poi riaffonna e riassomma più là. Su correte è una donna affogata, poveraccia, penava, chissà. La luna dell'issù fa capocella, rischiara il viso de ninetta bella, cercava pace e io gliel'ho negata. Fiume e vogliaccia e gliel'hai data tu.